geometrie, come un oceano, una scintilla che accende il coraggio e non sai come nasconderti. Ora ti posso guardare fino a sapere chi sei. Vieni, ti voglio parlare, mi scopro piccolo, libero e poi fuggirei sopra un bel prato ad aspettare la sera per tutti i giorni che ho corso la vita. Mi perderei in mezzo al mare, e rubiamo uno spazio per noi. Non è impossibile che il tuo destino non sia troppo lontano da me. Quante risposte saprò portare dentro.